come medicina lenitiva e prendo tutto come viene perché non vedo alternativa. Con una miccia che si spegne a metà strada, l'esplosione viene solo rinviata e trovo porte senza serratura e labirinti nella mente senza vie di fuga. E la mia voce c'ha da dire ma rimane muta e la mia penna nello scrivere risulta quasi sempre cupa. Imprigionato, prigione di me stesso, con l'occasione che ho buttato dentro un cesso, tutti gli errori che ho pagato, ma solo alla distanza la para di sbagliare, l'asticella che si alza nel vuoto. Questo salto come un gioco, qua da perdere c'è troppo, da vincere troppo poco. Lo dico con il cuore in una mano, per essere se stessi il cuore va messo lontano. Tra come vivo e ciò che sono, un corpo che provvede all'abbandono, come un fulmine che chiama il tuono, la mia vita dentro questo suono. Tra come vivo e ciò che sono, un corpo che provvede all'abbandono, come un fulmine che chiama il tuono, la mia vita dentro questo suono. Plasmo parole come chimica nelle pozioni, in mezzo a sto casino trovo le mie soluzioni. Spartizione dove impari la porzione, aggiungi un posto a tavola è solo una funzione. A pugni con il mondo in più di un'occasione, dove non conta motivo e tanto meno la ragione. Ho preso le mie botte imparando sta lezione, fidarsi è cosa buona, non fidarsi è la migliore. Ho fatto passi avanti, poi ne ho fatti mille indietro, forte come pietra, fragile come il vetro. Me ne sto sul retro se la vita è lo scenario, zero voglia di recite, questo è il mio binario. Uso le mie rime come scappatoia, perché diventa matto uno quando ingoia, ingoia. Domande nella media poste come in vano, prendo il mio cuore nella mano sperando che voli lontano. Tra come vivo e ciò che sono, un corpo che provvede all'abbandono, come un fulmine che chiama il tuono, la mia vita dentro questo suono. Tra come vivo e ciò che sono, un corpo che provvede all'abbandono, come un fulmine che chiama il tuono, la mia vita dentro questo suono. Tra come vivo e ciò che sono, un corpo che provvede all'abbandono, come un fulmine che chiama il tuono.